fadhakkir wajuh annula dong andintin inna fa'ati zikra inna fa'at ay si nafai mana si andi nafai azikra mbajungung sa andi mbajungung nafai sa andi andintin gongong nafai haray andintin huli wande maray gudo mbaju wana kaya andarang kohon no wajo faba ko be anda ko hon to won da wajade ko hon be won da wajade wana wulugo tum ko agero anda hi taw do ono kudo o sai do be yimbe do bero si mi andi tinire bero si mi yewti be nafore hebo to mudum wada du yewtira fi yo nafore hebo na fi tum da way wolde ma fi yo hito manane tum ara won da e wulirde giro anda wonde ma do mbajungum do nguna fay wajura non e hore dum andinde fa zakir andinde sabune do ngino andi goy koy wandinde sabani adama no yaawi ko yigi tata hare wonti no andi kono yigi da don fiw aye do ne no koy fiji bondi e faaji go ta fayda wiji tiwa ma e fiw himo andi le mayde nen ko de gonga de tul tata kono fayda raw yigi de sabu mu ko wada fiji tu taw ko di hana awa si a andi dini monon simu o andita o hula o reno fadhakir andinti wajo inna fa'ati zikra ay inna fa'at si tayuni a andina fay a zikra mbajungung.